L'agricoltura e l'allevamento. Il territorio del Peloponneso è in buona parte montuoso, di conseguenza l'agricoltura veniva praticata soprattutto lungo le coste e sulle colline. I micenei coltivavano legumi, ortaggi e cereali, olivi e viti. La produzione di olio e vino era abbondante e veniva in parte utilizzata negli scambi commerciali con le altre popolazioni. L'allevamento era molto diffuso. I micenei allevavano soprattutto ovini, cioè capre e pecore, da cui ricavavano carne e latte, ma anche lana per i tessuti. L'artigianato e il commercio. Gli artigiani micenei avevano imparato dai cretesi a lavorare con abilità la ceramica e i metalli. Con la ceramica realizzavano raffinati oggetti di uso quotidiano, come vasi e piatti. Con i metalli preziosi, come l'oro e l'argento, fabbricavano gioielli, calici e coppe, ma anche maschere funerarie. Con il bronzo producevano strumenti da lavoro, oggetti di uso quotidiano e armi. Oltre all'olio e al vino, anche i prodotti dell'artigianato alimentavano il commercio con le altre popolazioni. Come i cretesi e i fenici, infatti, i micenei divennero abili marinai e svilupparono un fiorente commercio marittimo. Per facilitare gli scambi, anche i commercianti micenei crearono diversi empori lungo le coste del Mar Mediterraneo.